Se lì, nel salotto di Madame de Villeparisis, non diversamente che, un tempo, nella chiesa di Combray, al matrimonio di Mademoiselle Persepied, stentavo a ritrovare, nel bel volto troppo umano di Madame de Guermantes, l'ignoto del suo nome, pensavo almeno che, quando avesse parlato, la sua conversazione profonda, misteriosa, avrebbe rivelato qualche singolarità da arazzo medievale, da vetrata gotica. Ma perché io non rimanessi deluso dalle parole di una persona che si chiamava Madame de Guermantes, non sarebbe stato sufficiente, anche se non l'avessi amata, che fossero parole fini, belle e profonde. Avrebbero dovuto riflettere il colore amaranto dell'ultima sillaba del suo nome, quel colore che, sin dal primo giorno, mi ero stupito di non trovare nella sua persona e avevo finito col mettere in salvo nel suo pensiero. Magari avevo già sentito Madame de Villeparisis, Saint-Lieu, persone la cui intelligenza non aveva niente d'eccezionale, pronunciare il nome di Guermantes senza alcuna precauzione, semplicemente come quello di una persona di cui si sta per ricevere la visita o con la quale si deve pranzare, dando l'impressione di non saper cogliere in esso visioni di boschi autunnali o l'intatto mistero di un angolo di provincia. Ma doveva essere, da parte loro, un'affettazione, come quando i poeti classici non ci comunicano certe intenzioni profonde che pure li hanno ispirati. Quell'affettazione che io stesso cercavo di imitare dicendo, col tono più naturale possibile e quasi fosse stato un nome come un altro, la duchessa di Guermantes. Del resto, tutti assicuravano che era una donna molto intelligente, dalla conversazione spiritosa e inserita in un ambiente dei più interessanti, affermazioni che divenivano subito complici del mio sogno. Infatti, quando sentivo parlare di ambiente intelligente, di conversazione spiritosa, non immaginavo certo un'intelligenza del tipo a me già noto, fosse pure espressa dalle menti più nobili, né mi sembrava possibile che quell'ambiente fosse composto da persone come Bergotte. No, per intelligenza intendevo una facoltà ineffabile, dorata, intrisa di frescura silvestre. Quand'anche avesse tenuto discorsi più intelligenti, nel senso in cui potevo trovare intelligente un filosofo o un critico, Madame de Guermantes avrebbe ugualmente deluso la mia attesa di una facoltà tanto particolare, e in modo più grave, forse, che se nell'ambito di una conversazione insulsa si fosse limitata a discorrere di ricette di cucina o dell'arredamento di un castello, a citare nomi di vicine o di parenti che, almeno, m'avrebbero evocato la sua vita. «Credevo di trovare Bazin qui da voi, aveva intenzione di venire», disse Madame de Guermantes a sua zia. «Sono parecchi giorni che non vedo tuo marito», rispose Madame de Villeparisis in tono suscettibile e contrariato. «Non lo vedo, o forse l'ho visto una volta, non ricordo. Non lo vedo da quando m'ha fatto quello scherzo geniale di farsi annunciare come la regina di Svezia». Per sorridere, Madame de Guermantes strinse le labbra come se avesse voluto mordere la veletta. «Abbiamo pranzato con lei ieri da Blanche Leroy, non la riconoscereste, è diventata enorme, penso proprio che sia malata». «Stavo appunto dicendo a questi signori che secondo te assomiglia a una rana». Madame de Guermantes fece udire una sorta di suono rauco destinato a esprimere che ridacchiava per scarico di coscienza. «Non sapevo d'aver fatto questo grazioso accostamento, ma adesso, semmai, si tratterebbe della rana che è riuscita a diventare grossa come il bue. Anzi, no, non esatto, visto che è ingrossata soprattutto nel ventre. Una rana in stato interessante, ecco». «Che immagine divertente!» esclamò Madame de Villeparisis, abbastanza fiera, tutto sommato, di esibire agli ospiti lo spirito di sua nipote. «Più che altro è arbitraria», replicò Madame de Guermantes, staccando ironicamente dalle altre, come avrebbe fatto Swann, quella parola ricercata. «Perché in confidenza non ho mai visto una rana incinta. Comunque, la rana in questione la quale, fra parentesi, non cerca affatto un re. Non l'ho mai vista tanto in forma come dopo la morte del marito. Deve venire a pranzo da noi la settimana prossima. Ho detto che vi avrei avvertita per ogni evenienza. Madame de Villeparisis fece udire una sorta di indistinto borbottio. «So che l'altro ieri è stata a pranzo da Madame de Mecklenburg», aggiunse. «C'era Hannibal de Bruti. Me l'ha raccontato lui in modo piuttosto divertente, devo dire. A quel pranzo c'era una persona ben più spiritosa di Babal», ribatté Madame de Guermantes, la quale, intima amica del signor di Breauté Consalvi, teneva a farlo sapere ricorrendo a quel diminutivo. «C'era Bergot!» Non mi era mai passato per la testa che Bergot potesse essere considerato una persona spiritosa. Per di più, egli mi appariva inserito nell'umanità intelligente, cioè distante mille miglia da quel misterioso reame che avevo intravisto dietro i tendaggi di porpora d'un palco di proscenio e nel quale il signor di Breauté intratteneva la duchessa e la faceva ridere nella lingua degli dèi, realizzando quella cosa inimmaginabile che era per me una conversazione fra persone del Faubourg Saint-Germain. Vedere questo equilibrio spezzarsi e Bergotto prendere il sopravvento sul signor di Breauté mi sconvolse. Ma soprattutto il seguito della conversazione fra Madame de Guermantes e Madame de Villeparisis mi sprofondò nella disperazione al pensiero che la sera di Phèdre avevo evitato Bergotte, non ero andato a salutarlo. «È l'unica persona che ho voglia di conoscere», aggiunse infatti la duchessa. E, come sempre, era possibile vedere in lei il flusso della curiosità nei confronti di intellettuali famosi incrociare strada facendo, in una sorta di marea mentale, il riflusso dello snobismo aristocratico. «Mi farebbe talmente piacere!» La presenza di Bergot al mio fianco, presenza che avrei potuto ottenere così facilmente, ma che mi sarebbe parsa tale da suggerire di me a Madame de Guermantes un cattivo concetto, avrebbe invece avuto ben altra conseguenza. La duchessa m'avrebbe fatto segno di raggiungerla nella sua barcaccia e m'avrebbe chiesto di portarle a colazione un giorno il grande scrittore. «Pare che non sia stato molto gentile. L'hanno presentato al signor di Coburg e non gli ha mai rivolto la parola», riprese la duchessa, segnalando quel curioso comportamento con lo stesso tono con cui avrebbe riferito che un cinese si era soffiato il naso in un pezzo di carta. «Non gli ha detto nemmeno una volta «monsignore», aggiunse, divertita da un dettaglio non meno importante per lei del rifiuto di un protestante di inginocchiarsi nel corso di un'udienza papale davanti a sua santità. Incuriosita da queste singolarità di Bergot, la duchessa non dava tuttavia l'impressione di giudicarle riprovevoli e sembrava anzi fargliene un merito, pur non sapendo esattamente di quale specie. Nonostante questo modo bizzarro di intendere l'originalità di Bergot, mi sorpresi in seguito a non trovare affatto trascurabile che Madame de Guermantes, suscitando in tutti un immenso stupore, ritenesse Bergot più spiritoso di Breauté. Giudizi di questo genere, sovversivi, isolati e malgrado tutto esatti, sono introdotti nel bel mondo da rare persone superiori alle altre e vi tracciano i primi lineamenti della gerarchia di valori che la generazione successiva, anziché attenersi in eterno a quelli già stabiliti, finirà con l'adottare. Il conte d'Argencourt, incaricato d'affari del Belgio e cugino acquisito di Madame de Villeparisis, entrò zoppicando, seguito quasi subito da due giovani, il barone di Guermantes e Sua Altezza il duca di Châtellerault, che Madame de Guermantes salutò con un distratto «Buongiorno, caro Châtellerault», senza spostarsi dal suo puff, perché era grande amica della madre del giovane duca, il quale nutriva perciò, sin dall'infanzia, un estremo rispetto per lei. Alti, snelli, pelle e chioma dorate, perfetti esemplari del tipo Guermantes, I due giovani sembravano condensare la luce vespertina e primaverile che inondava il salone. Secondo un'abitudine allora in voga, posarono i rispettivi cilindri per terra, accanto a loro. Lo storico della fronda pensò che lo facessero per imbarazzo, come un contadino che, entrando in municipio, non sa che cosa fare del cappello. Convinto di dover offrire un caritatevole soccorso alla goffaggine e alla timidezza che attribuiva a loro, «No, no!» s'affrettò a consigliarli. «Non metteteli per terra, così li sciuperete!» Ruotando obliquamente il piano delle pupille, il barone di Guermant innestò di scatto nel suo sguardo un azzurro crudo e tagliente che gelò il benevolo studioso. «Come si chiama quel signore?» mi chiese il barone che Madame de Villeparisis m'aveva appena presentato. «E il signor Pierre?» risposi a bassa voce. «Pierre, e poi?» «Pierre è il cognome, è uno storico di grande valore.» «Capirete. Non preoccupatevi, posare i cappelli per terra è una nuova usanza di questi signori», spiegò Madame de Villeparisis. «Io sono come voi, non riesco ad abituarmici, ma è sempre meglio di come fa mio nipote Robert, che lo lascia in anticamera. Quando lo vedo entrare così, gli dico che sembra l'orologiaio e gli chiedo se è venuto a dar la carica alle pendole.» «Poco fa, signora Marchesa, parlavate del cappello del signor Molé. Di questo passo finiremo col fare, come Aristotele, un capitolo dei cappelli», azzardò lo storico della fronda, un po' rassicurato dall'intervento di Madame de Villeparisis, ma con voce ancora così debole che io solo udì le sue parole. «È davvero incredibile, la nostra duchessa», disse il signor d'Argencourt, indicando Madame de Guermant intenta a conversare con G. «Non appena in un salotto c'è un uomo in vista, si può scommettere che andrà a mettersi accanto a lei. Evidentemente il pontefice della situazione non può trovarsi altrove. Non potrà essere ogni giorno un signor di Borelli, uno Schulumberger o un Davenel, ma sarà perlomeno Pierre Loti o Edmond Rostand. Ieri sera, dai Daudeville, dove, fra parentesi, era splendida col suo diadema di smeraldi e un grande abito rosa con lo strascico, aveva da una parte il signor de Chamel e dall'altra l'ambasciatore di Germania. Teneva testa a tutte e due sulla questione cinese. Il grosso pubblico, che stava a rispettosa distanza e non sentiva una parola dei loro discorsi, si chiedeva se, per caso, non stesse per scoppiare la guerra. Parola mia, la si sarebbe detta una regina attorniata dal consiglio della corona.» Tutti i presenti si erano avvicinati a Madame de Villeparisis per vederla dipingere. «Questi fiori sono d'un rosa assolutamente celeste», disse Le Grandin. «Hanno il colore del cielo quando è rosa. Voglio dire che c'è un rosa cielo, così come c'è un azzurro cielo. Ma...» aggiunse bisbigliando, nel tentativo di farsi sentire solo dalla marchesa, «credo d'amare ancora di più la seta, l'incarnato vivo della vostra copia. Ah, li lasciate ben indietro, voi, Pisanello e Van Huysen, con i loro erbari minuziosi e inanimati. Un artista, per quanto modesto, accetta sempre d'essere anteposto ai suoi rivali. Tutt'al più si fa scrupolo di rendere loro giustizia. Se vi fanno questo effetto è perché dipingevano fiori di quei tempi, fiori che noi non conosciamo più, ma avevano una tecnica straordinaria.» «Ah, oh, fiori di quei tempi! Davvero ingegnoso!» esclamò Le Grandin. «In effetti state dipingendo dei bei fiori di ciliegio o delle rose di maggio», intervenne lo storico della fronda, piuttosto esitante circa il nome del fiore, ma con voce sicura, adesso che cominciava a dimenticare l'incidente dei cappelli. «No, sono fiori di melo», corresse la duchessa di Guermant rivolgendosi a sua zia. «Ah, vedo che sei una buona campagnola come me, sai distinguere i fiori.» «Ah, già, è vero, ma credevo che la stagione dei meli fosse già finita», disse a caso per scusarsi lo storico della fronda. Ma no, al contrario, non sono ancora in fiore, non fioriranno prima di 2 o 3 settimane, precisò l'archivista che, occupandosi un poco delle proprietà di Madame de Villeparisis, era più al corrente di queste faccende agresti. Sì, ma solo intorno a Parigi, dove sono più avanti. In Normandia, per esempio, da suo padre, disse la duchessa indicando il duca di Châtellerault, che ha dei bellissimi meli in riva al mare, come su un paravento giapponese, sono davvero rosa soltanto dopo il 20 maggio. Io non li vedo mai, disse il giovane duca, perché mi fanno venire la febbre da fieno e da non credere. Febbre da fieno? Non ne ho mai sentito parlare, disse lo storico. È la malattia di moda, spiegò l'archivista. Dipende, potrebbe anche non farvi niente se fosse un anno buono per le mele. Conoscete il proverbio normanno? Per un anno di mele, intervenne il signor d'Argencourt, il quale, non essendo francese, tentava di sembrare un parigino. Hai ragione, confermò Madame de Villeparisis alla nipote. Sono meli del mezzogiorno. Una fioraia mi ha mandato questi rami pregandomi di accettarli. Vi stupisce, signor Balenier? Disse la marchesa rivolgendosi all'archivista. Che una fioraia mi regali dei rami di melo? Il fatto è che, pur essendo una vecchia signora, conosco un po' di gente, ho qualche amico, aggiunse sorridendo, per modestia, come pensarono tutti, o piuttosto, come parve a me, perché trovava piccante vantarsi dell'amicizia di una fioraia quando poteva contare su relazioni così importanti.